A tempo di sport di Giovanni Capuano. Del Piero! That's what they came to see. That's why Sydney FC paid the money. That is the measure of the man. What a goal! That is absolutely brilliant from Alessandro Del Piero. What a joy to be able to say that, and what a privilege. Buon pomeriggio amici di A Tempo di Sport, ci siamo svegliati questa mattina con negli occhi il sorriso di Alex Del Piero per il suo primo gol da un under a testa in giù, una punizione da 30 metri. Le immagini hanno fatto ormai il giro del web. Ieri sera eravamo andati a letto un po' così dopo aver visto la nazionale di Prandelli faticare in Armenia, ma questo è il grande potere del calcio che regala in poche ore emozioni così diverse. Buon pomeriggio a Claudio Pasqualin. Buon pomeriggio a tutti voi. Procuratore storico di Alex Del Piero, che questa mattina, chiedo, ha messo o no la sveglia per seguire la seconda gara di Alex in Australia? No, per la verità no, però è stata tra le prime cose che ho cercato di sapere in mattinata e sono stato contento per un verso, ovviamente per il suo gol, dispiaciuto un po' perché la sua squadra ha perso. Sì, perché il Sydney non ingrana, seconda sconfitta consecutiva, perso 3-2 in casa contro il Newcastle. Il gol del momentaneo 1-1 lo ha fatto Alex Del Piero, lo avete sentito nel commento originale della televisione australiana, una punizione delle sue da una trentina di metri, una punizione alla Del Piero, più di potenza che di precisione. A me personalmente ha emozionato molto questo gol segnato dall'altra parte del mondo, quando in Italia erano da poco passate le 9 di mattina. Io vi chiedo anche a voi a casa che cosa ne pensate, ricordo i numeri 800 24 00 24 se volete telefonare in diretta, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS, ma potete scriverci anche su Facebook, la pagina è A Tempo di Sport, oppure chiacchierare con noi via Twitter, @CapuanoGio. Pasqualin, si è emozionato o no a vederlo e a sentirlo, sì, questo gol? Sì, mi sono emozionato tantissimo, anche se, diciamo così, mancava il sonoro, perché all'epoca quando Ale disegnava le sue magiche parabole e la palla finiva nel 7, io non solo vedevo la luce ovviamente, ma avevo anche un particolare, sentivo un particolare rumore che è lo stesso che fa la slot machine quando fa il jackpot, capisce? Cioè tutti quei denari che scendono, no? Provocando quel tintinnio di abbondanza di gettoni o di denaro, no? Invece questo è un gol in saldo, perché siamo a fine carriera, è un gol con lo sconto. No. All'epoca da quel bieco mercante che ero, insomma, valutavo anche quello, cioè la parabola che finiva là voleva dire anche un contratto, come poi è stato, molto importante. Al di là delle battute, peraltro, mi sono emozionato, sì, e come, è stato un gol veramente da Del Piero, la sua solita punizione che lei ha descritto molto bene poco fa, insomma, e tante ancora ne farà, perché il calcio, secondo me, in Australia con Del Piero non sarà più lo stesso, al di là delle fortune della sua squadra che comunque lui pretenderà di raddrizzare in qualche maniera, perché non credo ci stia a perdere. Del Piero oggi è diventato un personaggio davvero trasversale. Questa mattina bastava fare un giro sui social network, a partire da Twitter. Il suo gol non ha emozionato soltanto i tifosi juventini, ma anche gli appassionati di calcio, magari i tifosi di tante altre squadre che sino a un anno fa lo consideravano un nemico. Saranno forse gol, Pasqualin, che valgono meno dal punto di vista economico, ma che secondo me avvicinano Del Piero a tutti gli sportivi italiani, anche i non juventini. Da questo punto di vista mi pare di poter dire che queste prime settimane della sua esperienza australiana abbiano confermato come la sua sia stata forse una scelta azzeccata. Ma sì, anche per l'esperienza di vita che va facendo con la sua famiglia, si arricchisce non certo dal punto di vista economico, ma sicuramente, o sì anche da quello, ma in maniera ovviamente relativa rispetto a quella alla quale era abituato, ma dal punto di vista umano, vivendo con la sua famiglia un'esperienza straordinaria. Bello vederlo come ha fatto stamattina, rivolgersi subito con grande lucidità, ma lui è sempre stato molto presente a se stesso, rivolgersi alla tribuna dove c'era sua moglie Sonia e magari qualcuno dei suoi tre figli. Quindi sì, è un'esperienza da quanto ne so, che lui è molto felice di vivere. Ci siamo scambiati dei messaggi prima della partita e credo che anche adesso, pur nella sconfitta, ma con la tenacia di chi deve suggerire anche qualcosa, no? In società, io credo che il parere di Del Piero sia tenuto in grande considerazione. E come ho detto prima, lui non ci sta a perdere. Sì, diciamo che questo inizio di stagione è forse, con le due sconfitte, l'unica cosa negativa nel bilancio che Alex Del Piero ha tracciato. Abbiamo letto anche una bellissima intervista concessa sulla Gazzetta dello Sport, in cui ha raccontato questo suo primo mese australiano. Sentiamo invece 12 secondi oggi del dopo partita di Alex Del Piero. Mi auguro che il prossimo, per essere ancora più felice, mi auguro che il prossimo sia unito a un risultato positivo, a una vittoria, che renderebbe tutto più gustoso, ecco, diciamo così. C'è Roberto Pasqualin che la sgrida, ci ha scritto 349-238-6666, che tristezza, Pasqualin ha visto Del Piero come un grosso portafoglio, non come qualcosa di poetico. Io posso mettere la mano sul fuoco, Claudio Pasqualin stava assolutamente facendo una battuta prima nel raccontare il rumore del jackpot. Credo proprio di sì, insomma, comunque... Spieghiamolo allora. È libero di pensarla come vuole, certo che il senso of humor probabilmente non è la sua qualità principale. Mi sembra invece di capire che Alex Del Piero non abbia ancora del tutto digerito il trattamento che gli ha riservato Andrea Agnelli. Io non so se lei nei suoi messaggi dei giorni scorsi con Alex ha provato ad approfondire anche quelle frasi che ha detto alla Gazzetta dello Sport, perché c'è molta amarezza in un campione che dice: io mi sarei invitato alla prima della Juventus in casa, la prima senza Alex Del Piero, però il silenzio di Agnelli, il silenzio della Juventus è qualcosa che mi ha lasciato indifferente. Sì, l'ho letto ovviamente anch'io ovviamente lei ha appena riferito il punto di vista di Ale, che è tale, insomma, sul quale non credo valga la pena di fare commenti. C'è l'impressione che si sia chiusa anche la porta per un ritorno, si stia chiudendo la porta per un ritorno futuro anche con un ruolo diverso, cioè l'uscita di Del Piero non è l'uscita di qualcuno che va, fa un giro, fa un po' di esperienza e poi torna con altri ruoli. A me ricorda abbastanza da vicino l'addio di Maldini con il Milan. No, non credo, perché nel calcio è tutto così velocemente cangiante e che tutto quello che è vero oggi magari non è più vero domani, al di là del fatto agonistico, per cui tutto magari dipende dal palo, no? Se lo prendi all'interno e il pallone va dentro sei il più bravo del mondo, altrimenti sei l'ultimo degli imbecilli. Ma al di là di questo, veramente tutto evolve, tutto cambia, anche gli uomini a volte cambiano e quindi io non credo si possa dire, si possa escludere un futuro bianconero al di là delle contingenze per uno che ha fatto la storia della Juventus. Va bene, speriamo. Grazie a Pasqualin. A voi, buona continuazione di trasmissione. Grazie a Claudio Pasqualin. Michele su Twitter, a @CapuanoGio, vedere il gol di Alex è stata una grande emozione, un pizzico di nostalgia e si sono emozionati anche tanti tifosi juventini che ci stanno scrivendo su Facebook. La pagina è A Tempo di Sport, ricordo anche i numeri, il numero verde 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS. Dopo il traffico parliamo della nazionale, perché oggi Prandelli se l'è presa per le recensioni non troppo lusinghiere della sfida di ieri sera in Armenia. A me personalmente è parsa una nazionale che per due terzi di partita ha fatto un passo indietro e non un passo in avanti rispetto alle due sfide di settembre, una nazionale che è ancora molto lontana dai livelli qualitativi visti all'europeo in Polonia e Ucraina. Oggi Prandelli se l'è un po' presa per questi voti, ha detto e ha confermato: l'Italia ha fatto una grande partita. Voglio sapere anche voi cosa ne pensate. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, come quella di Enzo da Napoli. Buon pomeriggio, Enzo. Buon pomeriggio. Prego. Niente, volevo dire questo. Noi, il tifoso sfegatato napoletano e anche noi amici nel nostro circolo, abbiamo avuto sempre un grossissimo rispetto per Del Piero. Volevo intervenire su Del Piero, per la Del Piero. Sì, per che ha risaltato il suo presidente, e non mi è piaciuto. Però volevo dire che campioni del genere è sempre bello vedere. Noi quando giocavamo Juve-Napoli, più delle volte Del Piero ci ha fatto gol, e è sempre un bel male, ma nello stesso tempo è un personaggio che noi ammiravamo. La correttezza in campo, perché un vero campione l'abbiamo sempre visto per la sua correttezza, per le botte che prendeva in campo. Insomma, voglio dire questo, ci sarebbe molto... Mi sarebbe piaciuto averlo per il finale di carriera a Napoli. Beh, ma del resto, Enzo, lo dicevamo prima anche con Claudio Pasqualin, Alex Del Piero è oramai, ma lo è stato anche nella seconda parte della sua carriera, un campione trasversale. È stato anche uno dei pochi, ad esempio, a prendere una posizione più sfumata nelle tante battaglie che la Juventus ha combattuto anche nei tribunali contro la Federcalcio in questi ultimi anni, battaglie per amor del cielo assolutamente legittime, ma che hanno scavato un ulteriore solco fra la Juve, i suoi tifosi e il resto dei tifosi del mondo del calcio italiano. Ecco, Alex Del Piero, così come altri, mi viene in mente ad esempio Zanetti, per quanto riguarda l'Inter, sono campioni trasversali, e questa sua partenza per l'Australia l'ha reso, secondo me, più lontano fisicamente ma ancora più vicino a tutto il mondo del calcio. La prova è stata anche l'emozione che ha accompagnato oggi la sua prima rete australiana. Intanto saluto Enrico Curro, collega di Repubblica, reduce dalla trasferta in Armenia. Buon pomeriggio, Enrico. Buon pomeriggio a te. Oggi siete stati sgridati da Prandelli, dopo lo facciamo sentire. Cosa dite a vostra discolpa? Ma guarda, per la verità ha fatto un distinguo che per noi è anche abbastanza motivo di orgoglio, cioè ha detto che accetta le critiche di chi era presente, di chi segue quotidianamente la nazionale, un po' meno quelle di chi sta a casa e dalla televisione. Naturalmente non si riferiva a tutti, ora stiamo cercando di capire chi fosse il suo obiettivo, chi dalla televisione pontifica. Ovviamente lo ha fatto in tono abbastanza morbido, poi in realtà non è mai violento, non sono delle critiche che possano far male quelle di Prandelli. Sicuramente dal punto di vista della stampa, qui mi permetto di fare una piccola digressione, è importante quello che ha detto Prandelli, si tende un po' troppo negli ultimi tempi a giudicare dalla televisione e la prospettiva di una partita vista dalla televisione, a volte condizionata anche magari appunto dalle immagini, dalle inquadrature, non è la stessa di chi è una prospettiva che tradisce allo stadio. Quindi diciamo che Prandelli, in realtà, per me, secondo me, quello che ha detto oggi può solo fare piacere ai giornalisti. Enrico, io faccio una rapidissima rassegna stampa di quello che ho trovato oggi sui giornali, grandi giornali, quelli che come Repubblica ad esempio avevano gli inviati a Yerevan ieri sera, e un po' ovunque trovo termini come sollievo, tanta sofferenza, piccolo passo avanti ma serve più concretezza. Ad esempio ha scritto il Corriere dello Sport, oppure il Corriere della Sera: gli azzurri resistono all'Armenia, non al Brasile, alla Spagna. Quindi io credo che anche in queste letture della partita ci fosse una critica implicita, diciamo, a una prestazione non giudicata forse come Prandelli ha fatto. Una gara di grande carattere, una grande partita, poi Prandelli ha tutte le ragioni di questo mondo di difendere l'operato dei suoi, però a me è sembrata anche un po' una puntura, ma poi la sentiamo insieme, visto più in generale la critica italiana. Sì, sì, però lui secondo me non ha, no, non secondo me, si sentirà anche, penso, dalla registrazione quando la manderete in onda, non era arrabbiato, diciamo così, oppure non è che non accettasse la critica in quanto tale, non accettava alcune definizioni, tipo ha parlato, ancora non siamo riusciti a capire a chi si riferisse, di chi ha scritto di un'italietta. La parola italietta a lui non è piaciuta, perché ha voluto sottolineare come la scelta di correre dei rischi giocando senza aspettare l'avversario, quindi con una tattica non attendistica, sia stata appunto una scelta precisa, non qualcosa di estemporaneo o di motivato dalla forza degli avversari. E poi ha voluto anche rilevare un'altra cosa sulla quale fondamentalmente credo che abbia abbastanza ragione, cioè io credo che l'Italia non abbia giocato così bene come lui forse ha detto ieri sera, però credo anche che abbia ragione nel dire che l'Armenia non è un avversario morbido. Io credo che l'Armenia, anche quella vista ieri sera, che in difesa era effettivamente abbastanza terrificante, però dal centrocampo in su sia una squadra di livello medio abbastanza buono, non è che ci si debba far ingannare dal nome. Lui ha ricordato come l'Armenia abbia mancato la qualificazione allo scorso europeo per un solo punto, quindi vuol dire evidentemente che si tratta di una squadra comunque discreta, dignitosa. Sì, dobbiamo abituarci a non sottovalutare più nazionali che ci sembrano più scarse delle nostre. Del resto siamo usciti da un mondiale con Nuova Zelanda, Paraguay, esatto, e Slovacchia. Io credo che quella lezione dovrebbe restarci impressa sulla pelle. Enrico, ti chiedo un minuto di pazienza. Sentiamo Cristiano da Grosseto, che ha chiamato all'800 24 00 24. No, è caduta. E allora sentiamo una sintesi dello sfogo, anche se i toni sono assolutamente bassi, di Prandelli un'ora fa in conferenza stampa. Finita la gara, noi abbiamo pensato di aver fatto una buona gara sotto tanti punti di vista. Poi, leggendo i giornali oggi, mi sembrava di aver vissuto un'altra gara. Ma questo va bene, perché è sempre stato da stimolo, perché ormai è diventato un rito e probabilmente la maglia azzurra è un lascia passare per tutti. Dopo la partita di ieri sera sono molto meno ansioso, perché volevo rivedere una squadra con il piglio giusto, con la personalità giusta, col carattere giusto, e secondo me c'erano tutte queste qualità nella partita di ieri. La squadra, non penso che ci sia, forse se lasciamo da parte la Spagna, non ci sono due o tre squadre in Europa che possono dettare legge ogni partita. Non so se mi date un suggerimento, mi date dei dettagli, ma non ne vedo squadre che possono uccidere le partite ancora prima di poter iniziare. Certo, se tra virgolette tutti pensano che l'Italia deve comunque sempre vincere a mani basse, allora forse c'è qualcosa che non va. Queste le parole di Prandelli. Marco da Napoli, buon pomeriggio. Prego. Senti, io volevo, chiaramente io sono d'accordo con i critici. Secondo me la nazionale ha giocato avanti, gioca abbastanza male, ma lo faceva già gli europei. Io penso che la nazionale di Prandelli sia stata molto sopravvalutata per una serie di eventi e di partite fortunate, ma neanche gli europei abbiamo visto questo grande gioco. E la prova è la partita finale con 4-0 dalla Spagna. Sì, anche se Marco ha inciso, io credo, molto la fatica. Io penso sia ingeneroso dire che l'Italia all'europeo non ha messo in mostra del gioco, della qualità, la qualità che in fondo oggi ha messo Prandelli non c'è ancora, ma sta inseguendo, Enrico. Sì, io credo che l'Italia non abbia giocato bene, che sempre, però qualche partita più che buona l'ha fatta, e credo che la sopravvalutazione dell'Italia in realtà sia legata eventualmente al risultato che ha ottenuto, cioè al secondo posto che nessuno si aspettava, e quindi adesso evidentemente tutti si aspettano che sia sempre all'altezza di quel risultato. Detto questo, io credo che l'Italia sia andata molto in controtendenza rispetto al livello internazionale del calcio italiano negli ultimi anni, quando non c'è dubbio sono andati abbastanza male, che quindi il risultato della nazionale di Prandelli vada valorizzato e il suo lavoro vadano valorizzati anche per questo, perché comunque il solo fatto che la nazionale stia continuando ad ottenere dei risultati superiori a quelli dei club, e questo è abbastanza incontestabile, deve far pensare che Prandelli comunque sta facendo un buon lavoro. Non è colpa sua se in questo momento, tolti De Rossi, Pirlo e Buffon, che sono stati decisivi anche ieri sera, non ci sono dei fuoriclasse. Ne abbiamo tre, sono questi, ci riteniamo stretti finché dureranno e speriamo che nel frattempo ne nascano degli altri. In chiusura, ricorrò collega di Repubblica, che al seguito della nazionale mi pare di sentire alle tue spalle i rumori dell'allenamento a Coverciano, correggimi se sbaglio. No, non sbagli, non sbagli. Allora, diamo due notizie. Balotelli si sta allenando, giusto? Balotelli ha appena finito di allenarsi, però si è allenato a parte, correndo col preparatore atletico Venturati, e non è dato sapere al momento se il responso che Prandelli attendeva sia stato positivo o meno. Lui ha detto che praticamente, non avendo poi tutto questo tempo a disposizione, se lui riuscirà ad allenarsi intensamente a partire da domani, potrà essere a disposizione per la partita con la Danimarca, altrimenti no. Però per il momento, siccome l'allenamento è ancora in corso degli altri, lui ha finito ma gli altri sono ancora in campo, non sono in grado di dirti se Prandelli è ottimista. Se ha se ha valutato bene questo primo allenamento o no. La notizia è che comunque difficilmente, nel caso di assenza di Balotelli, vedremo la coppia Osvaldo Destro, perché mi pare di aver capito Prandelli l'ha bocciata almeno dal primo minuto. L'altra notizia è che oggi Prandelli ha annunciato che giocherà Chiellini, che è stato fuori perché era il più stanco dal campionato. Un flash di 30 secondi, se c'è un po' di preoccupazione per il rendimento degli juventini, che ieri sono andati mediamente tutti male, a parte Pirlo e Buffon. Ma non credo che sia una questione di juventini, credo che sia una questione di sviluppo della partita che ha messo... Niente, c'è qualche problema sulla linea, allora ringraziamo e salutiamo Enrico Curro, collega di Repubblica, che è al seguito della Nazionale a Coverciano. Io ricordo ancora i contatti per parlare con noi della Nazionale, ma non solo, perché poi avremo anche in diretta Flavia Pennetta a una settimana dai master femminili per parlare un po' di tennis e poi parleremo anche di motori. I nostri contatti 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666 per i vostri sms, oppure su Facebook, la pagina è A Tempo di Sport, o su Twitter, scrivete su all'account chiocciola Capuano Gio. L'Italia ha vinto, ma se si gioca così non si arriva da nessuna parte, ci scrivono su Twitter. O ancora Ruggero, come si fa a dichiarare che le critiche le possono fare solo quelli che vanno allo stadio e non quelli che guardano in TV? Eppure lo ha detto Prandelli, ne abbiamo parlato prima con Enrico Curro. Un Prandelli oggi un po' arrabbiato per quello che aveva letto sui giornali. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Cristiano da Grosseto, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Eccoci. Io confermo che mi è sembrata un'italietta, anche se magari Prandelli si arrabbierà, però la mia domanda è un'altra, che ve la faccio, una provocazione. Il fatto che questa italietta nasca da un campionato in cui le grandi, Juventus escluse, di fatto puntano soprattutto sugli stranieri, in questo momento di crisi non sarebbe stato il caso magari di ripartire dalle giovanili, dai giovani, magari però italiani? Beh, però Cristiano, mi sembra che questa nazionale stia in realtà facendo questo, perché anche a causa degli stage che le società non concedono, ad esempio Prandelli in questa tornata si è portato dietro 27 giocatori proprio per tenere sott'occhio ad esempio Sharawi, Verratti, gente che può essere spesa subito per alcune frazioni di partita. Ad esempio oggi Prandelli ha utilizzato belle parole per il Sharawi, ha detto al vantaggio di non soffrire la pressione, almeno dal punto di vista apparente, ma che fanno certamente parte di un progetto futuro. Per quanto riguarda le squadre, le grandi, le big di Serie A, io credo che il problema sia che di grande livello, cioè di italiani che possano fare la differenza in Italia da subito, ce ne siano pochi. La Juventus ha costruito storicamente la sua spina dorsale in queste ultime stagioni sul blocco italiano e sta godendo dei frutti, ma non ci sono in giro tanti Marchisio, tanti Pirlo, tanti giocatori di questa levatura, e quindi per questo c'è spazio anche per tantissimi stranieri. Gianni dalla provincia di Latina, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio. No, io invece sono convinto che Prandelli è sulla strada giusta. Lo dico perché io ho la fortuna di avere qualche anno e di seguire la nazionale dai mondiali d'Inghilterra e poi il meraviglioso europeo del 70, senza parlare poi del 72 in Messico, ma mettiamo da parte, altrimenti mi prendono per un tirannosauro, non un brontosauro. No, cosa dire, che i giornalisti non l'azzeccano mai, vedi Spagna 82, vedi l'altro mondiale. No, io credo che i giornalisti fanno il loro ruolo, è quello di dare stimoli. Però noi siamo il bel paese che ha 24 quotidiani tutti quanti sportivi, per cui io credo che gli stimoli che ci vengono dalla stampa abbiano un valore. Non sono pro Prandelli, sono per la nazionale, sono sportivo, non tifoso. Grazie Gianni. Sì, a patto che Prandelli non cada nella sindrome di accerchiamento che purtroppo ha caratterizzato altre avventure di altri commissari tecnici non appena le cose hanno cominciato a non andare benissimo. Io noto soltanto che 2 anni fa, quando Prandelli ha ereditato questa nazionale da Lippi, l'Italia aveva toccato il fondo e quindi il coro dei consensi era unanime, e Prandelli ha fatto un ottimo lavoro che ci ha portato a una finale a sorpresa nell'Europeo. Oggi certamente l'asticella si è alzata, c'è una pressione maggiore. Mi pare di capire, seppure da distante, che Prandelli questa pressione la percepisca e la sente, quindi abbia bisogno certamente di risultati immediati per dare quelle risposte che in questo momento non trova. Buon pomeriggio Flavia Pennetta. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Flavia, non ti chiedo se ieri sera hai visto la nazionale o se questa mattina ti sei svegliata presto per assistere al primo gol australiano di Alex Del Piero. No, sinceramente no, mi hanno detto, ieri parlavo con un mio amico che stava guardando la partita e mi diceva che non giocavano benissimo, però sai, secondo me molto spesso è bello vincere anche quando non si gioca bene, quindi l'importante è andare avanti e cercare di migliorare. Tu fai parte della terza categoria, quelli che la nazionale non l'hanno nemmeno vista, non la criticano avendola vista in televisione, semplicemente non l'hai vista. A che punto è il tuo recupero dall'operazione al polso destro, fine agosto? Va meglio, va molto meglio, ho iniziato già a fare la fisioterapia, inizio a muoverlo, comunque bisogna avere ancora un po' di pazienza perché fino alla fine del prossimo mese non potrò prendere la racchetta in mano e quindi ci vuole ancora un mesetto di pazienza e di fisioterapia praticamente full time. Anche per capire quando puoi porti la scadenza per un rientro, io ho letto da qualche parte gli Australian Open 2013. Sì, quello è il mio obiettivo sicuramente, perché comunque è uno dei tornei più importanti dell'anno, quindi mi piacerebbe molto essere al 100% per quel torneo in particolare, sicuramente. Come passi le giornate in queste settimane che sono senza tennis, anche se immagino al tennis pensi in continuazione, per un atleta, da quello che mi hanno raccontato tuoi colleghi, non necessariamente tennisti, questi periodi dopo i lunghi infortuni, dopo un'operazione, sono una vera tortura? Sì, guarda, mi manca tantissimo, mi manca veramente tanto la competizione, mi manca un po' quello che è la routine di un torneo, però sto cercando di lavorare bene dal punto di vista fisico, palestra e quindi atletica tutti i giorni, faccio molta fisioterapia in acqua, quindi piscina, e poi per non perdere l'abitudine del campo, ti sembrerà strano, ma gioco 3 volte alla settimana con la sinistra. Ah, pur di continuare a sentire, i calciatori direbbero l'odore dell'erba, io nel tennis non so quale sia l'odore di un campo in sintetico, in cemento, forse ancora la terra battuta. Sì, dai, è importante per non perdere un po' le sensazioni, comunque sia, per non perdere l'abitudine al movimento in campo, alla distanza della palla, e comunque poi per me può anche essere utile, perché con il momento in cui tornerò a giocare, comunque sia, avendo rovescio a 2 mani, la mano sinistra la uso abbastanza, quindi rinforzarla non può fare, può far solo che bene. Quindi non si perde tempo nemmeno quando magari i medici consigliano un po' di prudenza. Si avvicina al Master di Istanbul, lo ricordiamo, è il torneo tra le migliori giocatrici del mondo, le prime 8, c'è una ragazza italiana, c'è Sara Errani. C'è un po' di rimpianto per non essertela potuta giocare quest'anno, una delle posizioni nelle prime 8? Guarda, rimpianto no, perché comunque cioè, non è facile arrivarci, e poi ero in una situazione che non è che era così vicina alla cosa, avrei dovuto giocare molto molto bene l'estate americana e soprattutto quest'ultimo periodo in Asia. Però purtroppo ci sono dei momenti dove il corpo ti chiede un po' più di tranquillità e tu non gliela dai, e quindi lui se la prende da sola. Molto spesso succede così. Diciamo che negli ultimi anni, dal 2008 in poi, ho spinto veramente tanto, ho giocato tantissimi singoli e doppi, e purtroppo fisicamente non sempre sia al 100%. Quindi adesso magari questi 4 mesi di stop che sto avendo mi possono soltanto aiutare a ricaricare le batterie. Qual è il tuo obiettivo per il 2013? Tu sei stata numero 10, adesso credo sì. Sei intorno alla 40esima, 50esima posizione, ma evidentemente sì. Sei ferma da fine agosto. Che obiettivo ti sei data? Ma sicuramente quello di tornare più in alto in classifica, di migliorare alcuni aspetti del mio gioco, che secondo me una volta migliorati possono portarmi a fare un saltino in avanti e poi piano piano comunque sia godermelo sempre di più, nel senso che comunque ho un'età dove apprezzo un po' di più tutto quello che mi porta a questo sport meraviglioso che è il tennis. Cosa ne pensi di Sara Errani, che è la quarta italiana dopo la Reggi, la Farina e Francesca Schiavone a qualificarsi per un Master? Ma sicuramente è stata una grandissima impresa per lei. È stato un anno fantastico sia dal punto di vista del singolo che del doppio, quindi ha tutte le carte in regola per fare un Master meraviglioso, e io spero per lei che lo faccia. Ci aiuti a capire cosa scatta dentro la testa di un atleta che è abituata a dei risultati buoni, non eccezionali, comunque importanti, un rendimento che in ogni caso fa della sua carriera una carriera da ricordare, poi improvvisamente in una stagione parte con una fila di successi, ad esempio come Sara Errani va in finale a Roland Garros, va in finale agli US Open. Cosa scatta dentro? Perché c'è questa maturazione? Beh, guarda, molta convinzione, nel senso che comunque quando inizi a vincere determinate partite credi molto di più in te stessa e vedi molti risultati più vicini di quelli che potevi pensare, no? Quindi avere la costanza e la continuità di vincere determinate partite ti danno molta coscienza di quello che stai diventando, di conseguenza ti danno la convinzione che ci puoi arrivare anche tu e piano piano ti scatta qualcosa dentro che non... è dettato più dalla costanza che da altre cose. È un po' la convinzione che avete preso voi tutte ragazze del tennis. A me sembra quasi che la vittoria di Francesca Schiavone a Roland Garros nel 2010 sia stata una sorta di liberi tutti. Beh, guarda, io penso che questo sia avvenuto un pochino prima, sia avvenuto nel momento in cui nel 2009 sono entrata nelle top 10, nel senso che è stato un... abbiamo fatto un passo dove magari nessuno era mai arrivato e di conseguenza ci si è reso conto tutti quanti che si poteva fare di più e si poteva migliorare. Poi c'è stata la vittoria di Francesca che ha smosso ancora di più le cose. Però diciamo che la Federation Cup nel 2006 ci ha dato una mano e poi nel 2009 comunque sia con entrare nelle top 10, vincere di nuovo la Federation Cup, il 2010 la vittoria di Francesca di Roland Garros, la vittoria della Federation Cup, sai, sono stati tanti risultati che vuoi non vuoi ti tirano l'una con l'altra e adesso è il momento di fare Roberta e noi ci faremo tirare un po' da loro per tornare sempre più in su. Agosto 2009, la prima tennista italiana nella top 10. Flavia Pennetta, che saluto e ringrazio per essere state con noi. Grazie Flavia. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ti giro anche i saluti dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo 349-238-6666 oppure su Facebook e Twitter. Buon pomeriggio a Raffaella dalla provincia di Viterbo. Buonasera a voi. Buonasera Raffaella. Del Piero merita una posizione importante nella Juventus perché quando gli altri scappavano e c'era da affrontare la Serie B lui ci è rimasto fedelmente. Roberto, che non è tifoso della Juventus, ci ha scritto al 349-238-6666. Raffaella, provincia di Viterbo, concorda? Sono assolutamente d'accordo con questo ascoltatore. Peccato che Agnelli l'abbia trattato un po' così. Lei da juventina cosa ne pensa? Trovo che sia stato un errore dal punto di vista strategico maternale, perché capisco tutto, lei calcoli, io sono una juventina dall'età di 12 anni, ne ho 49, quindi le ho seguite di Juventus più o meno da vicino, queste ultime degli ultimi 20 anni da vicinissimo, perché mi sono informata sempre, pur non andando molto spesso allo stadio. Io sono d'accordo, l'età avanza per tutti, anche per i grandi campioni. Però la presenza strategica di De Piero, se non più in campo, fra un anno, due, quello che sia, ma in società, sarebbe stata importantissima. E questo è stato un errore, non so spiegarmi per quale motivo, se voluto, se dovuto, non glielo so dire. Trovo che sia stata una cosa da Agnelli inspiegabile. Di sicuro una scelta che... Anche se... Di sicuro Raffaella è una scelta che ha spaccato in due il mondo Juve e lei ne è una testimonianza. Grazie, anche se in tanti, in ogni caso, continuano ad amare la Juventus e a puntare la sveglia il sabato, la domenica mattina, per seguire le gesta di Alex Del Piero in Australia. Un po' di attualità, di calcio, ha parlato Mino Raiola su Ibrahimovic. Ieri Ibrahimovic era stato accreditato di alcune dichiarazioni su Balotelli e sul Barcellona, giocatore mediocre per squadra mediocre. Sentite come l'ha presa Mino Raiola. Non ho mai detto queste frasi né su Mario Balotelli né sul Barcellona. Quello che ci dà semplicemente fastidio è questa epoca di comunicazione dove qualcuno dice che qualcuno ha detto, senza verificare niente, si spara sul web e tutti lo riproducono, tutti. Ci sono dei giornali che hanno controllato con me queste frasi e io ho detto... comunque l'hanno pubblicato. Allora a questo punto veramente merito non ha denuncia, i nostri legali faranno sì che chi fa questo verrà denunciato e prenderà le nostre provvedimenti giuridiche. Questo minoraio l'ha arrabbiato. Invece Galliani, sull'ipotesi del Milan all'Araba, la cessione del Milan al fondo sovrano del Qatar. Ma per il Milan non serve nulla, visto che con Silvio Berlusconi alla guida in 25 anni abbiamo vinto 28 trofei. Quindi serve ritornare anche in questo caso a vincere, ma direi che con la presidenza Berlusconi i tifosi del Milan non abbiano da lamentarsi. Quindi il nome Altani non le dice niente? No, il nome Altani no. Mi dice, perché evidentemente so chi sia, ho conosciuto anche qualcuno, ma non c'è in corso nessunissima trattativa per cessione di quota del Milan. E ora parliamo di Formula 1. Buon pomeriggio a Mario Poltronieri. Buon pomeriggio a te, Giovanni. Ciao. Eccoci Mario. Qua, allora. Buon pomeriggio. Allora, rapidamente, Weber-Vettel domani mattina alle 8 in prima fila, Hamilton-Alonso che partirà quarto, poi Raikkonen-Massa che partirà sesto. Questo hanno detto le prove del Gran Premio di Corea. Unico piano, ha detto Alonso, finire davanti a Vettel. L'impressione, ma correggimi se sbaglio, è che non sarà semplice, perché questa Red Bull va. Ma effettivamente, del resto, le ultime dichiarazioni dopo le prove di Alonso mi sembravano molto misurate, perché ha detto: loro hanno la macchina, e questa è una voltarella tutto sommato per la Ferrari, noi abbiamo la squadra. Ora da anni si dice che Formula 1 si vince per merito della squadra, non del solo pilota o della sola macchina, quindi questo può essere una nota positiva. Diciamo che ha lo svantaggio di partire sulla parte sporca della pista, quindi dietro a Vettel, che a sua volta probabilmente verrà staccato da Webber, e Alonso ha il rischio che ci sia Raikkonen, che è a sinistra nella pista, cioè nella parte più pulita di una pista, tra l'altro, che viene poco utilizzata, quindi non so quanto si sia realmente pulita. Sì, c'è il rischio che si mischino un po' le posizioni nelle prime due curve. Diciamo in rapida sintesi, speriamo che passi la prima curva, perché gli ultimi periodi sono stati estremamente negativi, è stato molto sfortunato. Dal punto di vista della strategia di corsa conterà molto il consumo delle gomme, perché il responsabile Pirelli ha detto che si potrebbe fare anche una sola sosta, perché la differenza tra i soft e i super soft è scarsissima. Quindi converrebbe, e questo potrebbe essere magari la tattica di corsa di Button, che ogni tanto ha i suoi problemi, insomma è solo un undicesimo e quindi dovrà fare una corsa. Sì, deve tentare il tutto per tutto. Mi pare di aver capito, Mario, che Ferrari e McLaren siano meglio sul passo gara rispetto alla Red Bull, e che quindi il risultato di questa prova non sia poi così negativo. No, ma effettivamente, guardi, io mi sono andato a guardare un po' tutti i risultati. Ora, è vero che, per esempio, non è indicativa la velocità di punta, perché tu pensa che Jean-Éric Vergne ha fatto 325 di velocità di punta, mentre Webber e Vettel sono 19esimo e 20esimo con 312 o 311. Le Ferrari sono un po' davanti, ma Alonso è ottavo con 315. Quindi queste prestazioni della Ferrari in velocità superiori comunque alla Red Bull vogliono dire che il discorso che si era fatto fino alla gara precedente, cioè che la Ferrari mancava l'equilibrio e quindi, dovendo caricare molto l'aerodinamica, perdeva un po' in velocità, questi dati lo smentirebbero. Poi un altro dato molto interessante: i circuiti di solito sono divisi in tre settori dove si prendono i tempi. Beh, in tutti e tre i settori della pista, sia il misto veloce, sia il tratto velocissimo, sia il tratto tortuoso, vede sempre Alonso al terzo posto. Quindi vuol dire una gara estremamente equilibrata. E quindi vuol dire che il podio è assolutamente alla portata, Mario. È tutto da dimostrare che il podio possa servire in questa gara, soprattutto se davanti dovesse arrivare Vettel. Io ti saluto, l'appuntamento è per domani a partire dalle 16.30, perché ne parleremo di questo Gran Premio. L'appuntamento è alle 16.30 anche per tutti voi che siete all'ascolto. Io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. Un saluto anche da Giovanni Capuano. Ci sentiamo domani 16.30-19.00.